Noi siamo amici, siamo noi, catapulta via Digiworld. Ma con l'amicizia tra di noi, ragazzi veri e Digimon, libereremo Digiworld. Digi, Digimon, Digimon, vola nel tuo mondo, vortice magnetico, scappa. L'isola di non è qua. Dai me sola, chi mi meggio. Noi siamo amici, siamo noi, catapultati a Digiworld. Ma con l'amicizia tra di noi, ragazzi veri e Digimon, libereremo Digiworld. Dai mezz'ora chi si mineggio, noi siamo amici, siamo noi, catapultati a Digiworld. Ma con l'amicizia tra di noi, ragazzi veri e Digimon, libereremo Digiworld. Ma con l'amicizia tra di noi, ragazzi veri e Digimon, libereremo.